Doveri e limitazioni. L'ordinamento islamico della vita è basato sulla chiara distinzione tra lecito halal e illecito haram. Sono illeciti tutti i mezzi e i comportamenti che arrecano pregiudizio, tanto sul piano morale quanto sul piano materiale, a chi li compie, a terzi, alla sicurezza pubblica e all'ordine sociale. Sono attività criminali, fabbricazione, vendita e consumo di bevande alcoliche e di stupefacenti, adulterio, oscenità, gioco d'azzardo, usura, scommesse e lotterie, transazioni di natura speculativa, contratti aleatori, manipolazione dei prezzi. La legge proibisce tutte le attività che si basano sullo sfruttamento economico dalla parte più debole economicamente della società e permette l'acquisto della ricchezza solo attraverso mezzi leciti che, oltre a procurare un onesto guadagno all'operatore, rendono anche, direttamente o indirettamente, un servizio reale alla comunità. La legge islamica riconosce il diritto di proprietà e il libero esercizio delle facoltà di godimento e disposizione, tuttavia pone dei limiti. Si può spendere per vie lecite e con mezzi leciti, è proibito lo sperpero e la prodigalità, è lecito il risparmio come pure l'investimento in attività lecite. Quando i cespiti tassabili superano il livello del minimo imponibile e su essi trascorre un anno, essi sono soggetti al prelievo dell'imposta coranica nella misura del 2,50%. La ricchezza accumulata e concentrata in poche mani per molto tempo arreca un danno all'economia generale, che è tanto più fiorente quanto più veloce e diffusa la circolazione della ricchezza. Per questo la normativa successoria tende a distribuire la ricchezza accumulata dal decuius tra tutti i parenti prossimi. Se mancano i parenti prossimi, vengono i congiunti, e se nessuno si fa avanti, allora la comunità diventa essa l'erede. La normativa successoria anti-accumulazionista contribuisce in modo definitivo a realizzare un'equa distribuzione della ricchezza.